Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Divines. Certamente, sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Ui, bella zio. Dal prog rock degli anni 70 all'atmosfera più dark degli anni 80 con la New Wave. Prima canzone era The Six and the Banshees dal titolo Into the Light dal disco Juju del 1981. Ascoltando molte indie band di oggi viene sempre da pensare che abbiano senza volerlo attinto da questi suoni, secondo voi? Beh, ovviamente anche le indie band che si considerano tra le più, diciamo, innovative e alternative dovranno pure aver attinto da qualche parte. Esatto. Veramente. Magari anche in maniera, diciamo, non del tutto involontaria. Cioè, c'è da dire che comunque Siouxsie and the Banshees rappresentano una delle band darkwave più importanti degli anni 80 e senza dubbio la loro influenza artistica si è estesa per molti anni successivi e sono arrivate ai nostri giorni influenzando in particolar modo, diciamo, quelle band che, come ad esempio noi, Divines, cercano di creare un sound abbastanza semplice ma nello stesso tempo ricercato, con qualche, diciamo, piccola sfumatura post-punk. Kim e Martina è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro questa frase così forte e provocatrice? Beh, per quanto riguarda il titolo, possiamo dirvi che si tratta della title track del disco. E abbiamo deciso di scegliere questa canzone a cui siamo molto affezionati perché è stata la prima che abbiamo composto per questo progetto. E scegliendo questa canzone abbiamo creato anche un legame poi con la copertina del disco, che non è solo un'immagine forte e di impatto. Infatti il cuore che c'è in copertina sta a significare che, come ce l'abbiamo messo noi il cuore, no? In questo progetto. Quindi uno sforzo pesante ma piacevole e che ci crediamo tutti in questo progetto. E se qualcuno si chiedesse chi è Martina, lasciamo intorno a lei un piccolo alone di mistero, ecco. Il Dark così vede come primi protagonisti Joy Division, nativi di Manchester e guidati dal carismatico cantante Ian Curtis. Li riascoltiamo dal disco Unknown Pleasures con il classico Disorder. We'll be right back. sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations petty answers leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Quest'anno si ricordano 30 anni dalla scomparsa di Ian Curtis. Quanto secondo voi ancora sono attuali Joy Division? Beh, come abbiamo già accennato in precedenza, crediamo che la musica si evolva molto rapidamente, ma certe band come Joy Division sono destinate a lasciare un segno indelebile e ad essere ricordate per poi tantissimo tempo. Uno dei vostri brani ha anche l'apporto di un videoclip. Come è stato lavorare con un videomaker e soprattutto quanto è stato impegnativo? Beh, partiamo dal presupposto che ci siamo divertiti tantissimo tutti, giusto? Giusto, giusto. Ci siamo divertiti veramente tanto e per questo vogliamo ringraziare veramente di cuore il nostro amico e regista Davide Bedocchi per averci dato la possibilità di fare un video con lui. La proposta è nata da parte sua dopo aver sentito i nostri primi tre pezzi ancora in preproduzione. Allora infatti eravamo ancora in quattro, eravamo io, Lorenzo, Riccardo e Andrea. Infatti Fabiano e Nicola non ci sono in questo video. È stato sicuramente uno dei momenti più belli e intensi della nostra vita, sicuramente. Quel giorno eravamo a mille, le luci, la musica, le telecamere, le truccatrici, ci sentivamo come stare, insomma. Diciamo che è stato possibile realizzare il video comunque grazie esclusivamente a Davide, il regista, che ha collaborato con noi nella produzione. Il video comunque è disponibile sul nostro sito ufficiale, sul nostro MySpace ufficiale, che è www.myspace.com/divines. Di trattino in mezzo Vines. Perfetto. Ecco. Chiudiamo allora la seconda parte con gli Echo and the Bunnymen, la band di Ian McCulloch, colta all'esordio sul disco del 1980 con Crocodiles. Da quell'album la canzone Rescue. Noi torniamo dopo la pubblicità con i Divines, che ci faranno ascoltare sei canzoni dal loro disco Kill Me Martina. Non mancate.